Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera radioascoltatori e bentornati a Ethno Chic. Buonasera Azul. Buonasera Vladimiro. E niente, ci ritroviamo dopo un paio di settimane di pause per vari motivi, insomma, ecco, così in questo momento di primavera che parte con grande timidezza, insomma, sembra quasi estate, poi sembra di nuovo autunno, insomma, le stagioni un po' cambiano e in continuazione. E ieri era il primo maggio e il primo maggio c'è stato un lutto in qualche modo che noi vogliamo, insomma, fare un omaggio a Max Berru, che è era uno dei fondatori del gruppo cileno Entilimani, che è conosciuto in tutto il mondo, insomma, per aver portato la canzone cilena, la nuova canzone cilena, aver fatto conoscere autori come Violeta Parra, Victor Cara, Patricio Mans. È mancato dopo una lunga malattia. Lui è quadregno naturalizzato cileno, è stato molti anni appunto in esilio qui in Italia e ha mantenuto un rapporto, amicizie e anche rapporti di lavoro musicali, insomma, in questo paese. In qualche modo vogliamo ricordarlo con questo brano, che appunto da uno dei loro primi dischi, che venne pubblicato in Italia nel 74. Il disco era Autores Cileno, il brano è La Partida di Victor Cara. Thank you.

un disco che lascerà traccia non solo nella carriera di Serrat, ma anche insomma nella musica proprio anche del Mediterraneo, perché basta pensare che Serrat è un cantautore che non solo è stato molte volte al Premio Tenco, insomma, qui in Italia, ma anche è stato tradotto, per dire, canzoni sue sono state cantate da Mina, da Guccini, da Gino Paoli, che Gino Paoli addirittura ha fatto proprio anche una versione in italiano di questa canzone, di altre canzoni di questo disco, in un disco che è uscito nel 1974, Omaggio Serrat, che si chiamava I semafori rossi non sono Dio, e in cui questi testi venivano in qualche modo un po', non sono proprio le traduzioni letterali. Come al solito, ricordiamo, in quel periodo, nel 1971, la Spagna era ancora sotto la dittatura di Franco, e Serrat, cantautore catalano, appunto di Barcellona, aveva cominciato proprio cantando in catalano, facendo molte canzoni uscite in 45 giri, nei suoi primi LP in catalano, e mi pare proprio nel 1968 doveva esibirsi per un festival importante, però doveva cantare una canzone in castigliano, insomma, quindi, e invece lui voleva cantarla appunto per protestare contro la censura verso la lingua catalana in catalano, e per cui, insomma, ecco, prese delle posizioni in quegli anni appunto contro la pena di morte, contro la dittatura, contro... E quindi in questo disco troviamo un po' in realtà una traccia di, come abbiamo visto già anche per quando abbiamo parlato del Brasile, per esempio il tropicalismo, una traccia nei testi delle cose che vengono dette in modo cifrato, insomma, in qualche modo. Per esempio in questo disco il concetto del rapporto del Mediterraneo, il rapporto con la memoria, il rapporto con il proprio paese, raccontare alcuni personaggi, insomma, è in qualche modo un percorso attraverso la memoria, e anche poi che arriva fino poi all'ultima traccia, che è su un testo di Leon Felipe, è l'unica traccia dove testo e musica non sono di Serrat, in cui, che si chiama Vencidos, se sentiremo alla fine, in cui col richiamo di un vinto per eccellenza alla tradizione letteraria spagnola, cioè Don Quixote della Mancia, in qualche modo si fa riferimento, sottinteso, ai vinti della guerra civile, cioè repubblicani, cioè quelli che avevano subito poi anche la repressione di Franco. E in questo percorso sulla memoria, sul recupero delle piccole cose, appunto, della memoria, andiamo a sentire proprio il secondo brano del disco, che si chiama Aquellas Pequeñas Cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. E sentiamo, appunto, abbiamo sentito Aquellas Pequeñas Cosas, è un disco i cui arrangiamenti sono stati curati da Giampiero Reverberi, che ha curato anche alcuni arrangiamenti di molti autori italiani, per esempio Tutti Morino a Stento di Fabrizio De André, ma anche altri, insomma, e sono arrangiamenti molto ricercati, insomma, in cui però sentiamo sentiremo molto spesso un'influenza anche di musiche e ritmi dal Sud America, perché ripercorrendo un po' i primi anni della carriera abbiamo detto insomma che Serrat nasce come cantautore in lingua catalana, e in quegli anni, proprio all'inizio degli anni 60, c'era un movimento che recuperava la canzone attraverso il rapporto sia con la canzone e i repertori tradizionali, come per esempio i canti narrativi, le ballate, ma anche la musica della canzone francese, insomma, e che non a caso anche quella è una tradizione storica ancora fin dal Medioevo di la chanson. Insomma, quindi iniziava quello che poi sarebbe stato il cantautorato, insomma, un po' in tutto il mondo. Però in qualche modo, quindi Serrat agli inizi segue questo percorso, e adesso poi andremo anche a vedere, segue questo percorso non solo cantando canzoni in catalano originali sue, ma anche avvicinandosi a quelle che erano appunto i repertori tradizionali, che in particolare la canzone narrativa. Canti narrativi che sarebbe o ballate popolari, che sono di tradizione europea e poi si sono diffuse in tutto il mondo con la colonizzazione. Queste canzoni sono originarie ancora del periodo medievale, e perché si sono, come dire, conservate e tramandate oralmente attraverso fogli volanti di cantastorie, eccetera, a volte anche testi manoscritti, perché in qualche modo rispecchiavano un certo modo di vedere rispetto a alcune questioni importanti da parte della popolazione, insomma, ecco, la popolazione soprattutto delle campagne. Contadina, Esatto, insomma, un modo di vedere da parte dei contadini quella che era la situazione, alcune situazioni che apparivano nella situazione feudale, e che però erano legati non a temi astratti, lontani, però a questioni, per esempio, il rapporto tra uomo e donna, la violenza sulle donne, i rapporti familiari, i rapporti sociali, la satira, piuttosto che le grandi vicende storiche in cui, viste però insomma da un altro lato, insomma, ecco. E appunto abbiamo visto che Serrat, non a caso, oltre a dei dischi che sono canzoni appunto in lingua catalana sue originali, si occupa di due altri aspetti che sono importanti anche per capire il percorso poi per cui arriviamo a questo disco Mediterraneo. Da un lato si occupa appunto di recuperare alcuni poeti come insomma importanti per la Spagna, come Antonio Machado, insomma, a cui dedica un disco, e dall'altro, oltre alla poesia, insomma, che poi era in qualche modo in quegli anni dittatura vista un po' di malocchi, perché erano poeti insomma della parte repubblicana durante la guerra civile, anche di recuperare appunto questa tradizione, i canti narrativi, facendo appunto, pubblicando un disco nel 1967 di canzoni tradizionali di vario tipo, in cui fanno soprattutto la parte, abbiamo come parte principale le ballate tradizionali. È un disco anche qui dove ci sono degli arrangiamenti orchestrali, quindi non è un disco di ricalco, insomma, della tradizione. E andiamo a sentire questa Dama d'Aragò. Robadora del amor, ay, adiós. seu germano la mirava, amb un ull tot amorós. Se la mira i se l'emporta a la fira de Lió. Ai, adéu, Anna Maria, robadora. Tants anells que li compra li cauen del mocador. Tingui, senyora Maria, tingui, tingui els anells d'or. Ai, adéu, Anna Maria, robadora. Tal resplendor n'és filla del rei de França, germana de d'Aragó. Ai, adéu, Anna Maria, robadora de l'amor. Ai, adéu. Questa dama d'Aragó che si pettina i capelli, si prepara quando si capisce che è matrimonio o che cosa, e molto spesso queste introduzioni, che nascevano magari anche da dei racconti che venivano chiamati per esempio in Francia Chanson d'Étoile, dove c'erano queste scene, dove c'erano quasi come un affresco, una miniatura medievale, dove c'erano queste dame che aspettavano al bancone cucendo il cavaliere, molto spesso prendono poi anche una piega un po' tragica, nel senso che molto spesso emergono la violenza del marito, la costrizione di un matrimonio, insomma. E in questo è molto interessante perché è un tratto comune della tradizione europea, dei canti narrativi, questo rapporto appunto tra figura femminile e figura maschile, e rapporti sociali e di genere conflittuali legato a questi tipi di rapporti. Per esempio, la prossima versione che sentiamo di una ballata non è cantata da Serrat, ma è proprio stata registrata da Alan Lomax, che abbiamo già ritrovato altre volte, questo ricercatore texano che si ritrovò in Europa a fare ricerche tra gli anni 50 e 60, e nel 52 si ritrovò proprio nell'isola di Mallorca, e lì si andò a registrare vari brani, e insomma registra la musica del posto, la musica tradizionale, tra cui appunto questa Delgadina, che è la storia di un incesto di questo padre, che si capisce che è un re in alcune versioni, e questo re vuole costringere la figlia minore a sposarlo, e la figlia minore rifiuta, e alla fine poi verrà rinchiusa in una torre e morirà in questa torre. È una versione molto corta, registrata appunto Alan Lomas nel 1952 a Mallorca, in lingua castigliana. Chissà se questa prevalenza di brani, insomma, in queste registrazioni in lingua castigliana erano dovute anche al fatto che non si poteva cantare in castigliano, sono degli adattamenti, non lo sappiamo. Un padre que tenía tres hijas, todas tres con oro y plata, todas tres con oro y plata. Y la más chiquitinita, Delgadina, se llamaba, Delgadina se llamaba. Un día estando en la mesa, su papá se la miraba, su papá se la miraba. ¿Por qué me miras, papá? ¿Por qué me mira la cara? ¿Por qué me mira la cara? ¿Cómo no te he de mirar si has de ser mi enamorada, si has de ser mi enamorada? si yo tenía que ser de padre la desposada y madre de mis hermanas. Preferiría morir encerrada en una sala, encerrada en una sala. E troviamo proprio molto in Catalogna queste figure di donne che resistono appunto a queste violenze familiari, oppure la fidanzata del bandito che appunto è costretta ad andare a letto col capitano delle guardie per cercare di salvare il marito, però non ce la fa e quindi poi comunque insomma fa questo sacrificio per il marito, eccetera. Tutto questo è ripreso anche da altre cantanti di questo movimento che dicevamo che potremmo chiamare Nuova Canzone, legato al nuovo cantautorato catalano, che cerca un po' di riprendere appunto sia la lingua catalana in resistenza ai divieti appunto che erano nel periodo di usare la lingua catalana, sia per una riscoperta culturale, eccetera eccetera. E questo movimento negli anni 60 è molto attivo, arriva addirittura a costituirsi un gruppo che si chiama i 17 giudici, dal nome appunto erano già 17 cantautori che poi sono diventati molti di più, insomma, che recuperavano questo repertorio tradizionale. E qui abbiamo Maria del Mar Bonnet, che è ancora attiva, che ci esegue una ballata che è L'amor della Margalida, la cui musica, che è sempre un brano maiorchino dell'isola di Mallorca, e stavolta però in catalano appunto, e anche questa è la storia della morte di questa Margalida, e la musica è stata poi utilizzata anche in una canzone di resistenza appunto al franchismo che si chiama La hierba de los caminos. La hierba de los Margalitas, Maria del Mar Bonnet. L'amo de Bòlics m'envia missatges i jornalers. Se me dona i los de més, se me dona i los de més tota la gent que hi havia. Voleu escriure en papers la mort de na Margalida, que si greu no vos sabia, que si greu no vos sabia com en seria el procés. Dia 16 de gener d'incantro pell m'encontrava en Joan Blai Maduguer, en Joan Blai Maduguer, noves que jo no esperava. Va dir si alterat estava, jo li vaig dir no res sé. De salota Maduguer, de salota Maduguer, aquella morta s'encontrava. Jo corria i no vaia, i a casa seva vaig anar. Com mentre s'obri la porta, com mentre s'obri la porta, sa mare ja em va abraçar i em va dir: Sebastià, na Margalida ja és morta. Oh, punyalada més forta, oh, punyalada més forta, no la recà cristià. I a veure-la vull jo anar, i a veure-la vull jo anar, que és mirar-la me conhorta. Partiguérem en sa nit, i sa tristor mos matava, i cada instant mos faltava, i cada instant mos faltava sa força i s'esperit. No n'estic empagaït de contar lo que em passava, i a veure-la morta anava, i a veure per la mort anava, i en soc ben entristit. quan dins soglia vaig entrar, me digueren de seguida per veure na Margalida, per veure na Margalida hi hauràs d'anar a esfossa. Molt pronta vaig descobrir ses parets d'aquell local, o cementeri d'Ogal, o cementeri d'Ogal, vaig davallar i vaig dir, i aquí s'ha de consumir, i aquí s'ha de consumir sa meva amor principal, i sa vida de resval, i sa vida de resval en aquest món assistir. Adiós, Margalidata, Margalidata, adiós, Déu del cel qui és piadós, Déu del cel qui és piadós, allà t'endrà Margalida. I jo n'acabàs sa vida, i jo n'acabàs sa vida, que mos hi vegem tot dos. Per lo pronta i llunquera, i és que molta gent la plany, i en sa bestia company, i en sa bestia company, a Margalida Cervera, i en sa bestia company, i en sa bestia company, a Margalida Cervera. Questa era Maria del Mar Bornè con la Morne Mangalita da Canzon de Festa, che sono riproposta di canzoni dall'isola di Mallorca, di cui prima abbiamo sentito appunto una registrazione appunto sul campo, insomma una signora non professionista, che però abbiamo visto come teneva bene il tono e come sapeva cantare, perché una volta si cantava molto di più. È interessante che questo repertorio dei romance è molto antico, e non solo si è tramandato attraverso la tradizione orale, ma abbiamo anche dei testi scritti documentati fin dal 1400, appunto, non solo testi come potremmo chiamare noi fogli violavolanti, insomma, di cantastoria, insomma, come che hanno avuto una grande parte nella diffusione di questo repertorio, ma proprio scritti raccolte, perché anche allora, il periodo appunto in cui soprattutto poi con il periodo dell'invenzione, dopo l'invenzione della stampa, questi testi erano talmente popolari, anche le musiche, che sono state fatte delle raccolte di testi e musiche di questo tipo fin dai tempi poi dei re Ferdinando e Isabella di Castiglia, insomma, quindi il periodo della scoperta dell'America, e venivano appunto diffusi. Addirittura ho trovato che appunto uno studente di Mallorca nel 1421, mi pare, trascrisse proprio qui a Bologna su un taccuino una di queste romanze, e adesso questo taccuino è custodito alla Biblioteca Nazionale di Firenze. E quindi interessante, insomma, questi poi chiaramente viaggiavano per o perché studenti, oppure perché cantastorie, musicisti a seguito delle carovane di mercanti, e poi questo repertorio girava un po' per tutta Europa. E quindi questo legame, questa presenza forte di questo repertorio storico, che poi veniva arricchito anche da poeti che si rifacevano a questo repertorio, autori come anche Lope de Vega, fino poi appunto arrivare a Machado nel Novecento, a Federico García Lorca, sicuramente è stato un bel riferimento per questo gruppo di La Nuova Canzone. E Serrat ne fa omaggio proprio in Mediterraneo, in vari punti, riprendendo appunto questo legame appunto alle piccole memorie, alle storie del proprio paese, ai ricordi negati appunto negli anni della dittatura, a racconti di personaggi oppure storie d'amore viste però in maniera più, come dire, più concreta, più vicina alla realtà, non cartolinesche. E in tutto questo un legame con quelli che sono appunto i pueblos spagnoli, il proprio villaggio, le proprie radici. Nel prossimo brano torniamo a Mediterraneo e questo Pueblo Blanco. Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que afuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento bordeando la cañada donde no crece una flor ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Siamo sempre a Noscicca, Radio Città del Capo, 90, 6250947. E stiamo ascoltando questo disco di Mediterraneo di Serrat dopo aver fatto un po' di divagazione, un po' di estemporanee sulle origini, partenza della formazione di Serrat in questo contesto, insomma, dove il rapporto con la propria cultura, la tradizione era molto forte, insomma, ha vissuto anche forma di resistenza rispetto al regime di Franco, insomma, che era allora vigente in Spagna. Il prossimo brano, Tio Alberto, è la storia di questo personaggio, una specie di viveur, insomma, gitano, insomma, e quindi, come dire, una di quelle piccole storie che raccontano dei personaggi, insomma, che in qualche modo erano legate un po' a, appunto, questo rapporto a musica tradizionale, in parte forse retaggio anche di quella chanson francese, Brassens, Vian, che sicuramente è un po' l'origine di tutto, ma ricordiamo che anche qui il successo della chanson francese, il repertorio cantautorale, è legato al fatto che, come gli studiosi hanno determinato, insomma, le ricerche, molto probabilmente la Francia è un po' il paese da dove questo repertorio della chanson e della ballade, ricordatevi i vari trovatori provenzali, insomma, tutto a quei repertori sono partiti, da lì è partito un po' questo tipo di raccontare la vita delle persone, le storie della società reali, per poi diffondersi un po' come modello in tutta Europa ancora, appunto, nel Medioevo. E quindi ascoltiamo questo Tio Alberto. Gitano payo pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino. En el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto. Thank you. questa era T. Alberto. E confrontando in quel periodo un altro cantautore importante del catalano, Lluís Llach, anche lui ci racconta un personaggio un po' anche ai margini, insomma, un po' anche visto un po' magari un po' con diffidenza, eccetera, no? Come quei personaggi un po' che possiamo trovare anche nel nostro cantautorato, che sono visti un po' come persone strane, insomma, questa Madame di cui ci parla Lluís Llach, più o meno negli stessi anni. Ningú sap el seu nom, tothom n'hi deia la Madame, rodona com una nou, estirada i suant a la platja amb el seu mallot que va comprar Samaritan. Turista a la planxa amb oli, sorra i sal, i els nois que per la platja la senten dolç roncar, amb somnis de coqueta, amant de qualsevol amant, l'envolten i la canten, el cor li fan esvolotar, arrugues que s'amaguen, divises a guanyar. Oh, que esvelta i maca que està avui, Madame, sembla una sirena sortida del mar. Quins cabells més ben tintats que du, Madame, i ella res comprèn, ensenya una dent, riu, riu i res no diu. Quina panxa més rodona té, Madame, les arrugues són gentils i sensuals, per poc preu seria el vostre amant, Madame, i ell res comprèn, ensenya una dent, riu, riu i res no diu. I t'aniràs a França, maleta plena de records, barrets i castanyoles, conyacs i mocadors, enveja de veïnes que no han tingut la sort d'anar a terres fadrines i comprar una cançó. Esvelta i maca que està avui, Madame, sembla una sirena sortida del mar. Quins cabells més ben tintats que du, Madame, i ella res comprèn, ensenya una dent, riu, riu i res no diu. Quina panxa més rodona té, Madame, les arrugues són gentils i sensuals, per poc preu seria el vostre amant, Madame, i ella res comprèn, ensenya una dent, riu, riu i res no diu. La la la la la la la la la. Sarà Lluís Llach con questo altro, come dire, ritratto di società, insomma. E prossima invece torniamo di nuovo al nostro disco riferimento della serata, questo Mediterraneo che ricordiamo Serrat sta portando in giro per il Sud America e per la Spagna e poi per tutto il Sud America con un tour che si chiama Mediterraneo da capo. E questa è una canzone d'amore che è Lucia. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé palidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía. Lucía, tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Vi salutiamo, che siamo in chiusura con l'ultimo brano del disco. Questo Vencidos, che come dicevamo su testo di Leon Felipe ricorda un po', attraverso l'epopea di Don Chisciotte della Mancia, un omaggio ai vinti, che poi sarebbero i vinti quelli della guerra civile, ovvero sia i repubblicani, insomma. E quindi un omaggio al Mediterraneo, ma anche un omaggio a quella tradizione esistente spagnola ancora sotto Franco. E vi diciamo la buonanotte, vi lasciamo con Vencidos da Vladimiro e da Azul. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor.